9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti ora che primavera, vengo anch'io, no tu no, con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 23 ottobre, auguri a chi festeggia oggi San Giovanni da Capistrano e ai Giovanni che festeggiano questo particolare giorno di onomastico del Giovanni. Allora, tra le tante pillole del giorno da segnalare, che volete che vi dica? Quella, l'apertura del Fatto Quotidiano non mi dispiace, è un po' gridata, è un po' demagogica come capita ai colleghi del Fatto Quotidiano, ma coglie con sintetica abrasione uno dei punti più paradossali della condizione che viviamo nel Lazio e in Lombardia. Titolo del Fatto Quotidiano infatti è: consigli scaduti non lavorano, prendono i soldi. E devo dire che effettivamente, pensando alla condizione di centinaia di migliaia di italiani, non è male questa purtroppo paradossale affermazione. Tuttavia oggi vorrei cominciare, tra le tante altre cose, avete visto che la maggioranza sta smontando come prevedevamo la legge di stabilità, avete visto che la Fornero si è attirata ieri nuovi strali dicendo che i giovani sono schizzinosi e molti quotidiani come oggi Repubblica oggi la, più che pizzicarla, un po' la bastonano in prima pagina, perché capite che un titolo come quello di Filippo Ceccarelli, che dice le mille gaffe della prima della classe, insomma, oramai è diventato un umore inveterato e consolidato più che un giudizio, quello riservato alla dichiarazione del ministro Fornero, che in effetti, diciamo, non è molto abile a camminare sui terreni scivolosi perché di solito casca. Ma al di là di questo, di Grillo in Sicilia che continua a mietere successi, e vedrete che secondo me avrà più voto di quello che tutti i partiti preventivavano, oppure che ne so, di Santoro che ha annunciato ieri nella conferenza stampa il suo ritorno sulla 7, e ancora di queste cifre terribili di tumori in aumento del 30% all'ILVA di Taranto, che effettivamente sono terribili. Io vorrei cominciare con una lettera che esprime, come meglio non saprei, quello che ieri mi è venuto da pensare su una notizia che a me sembrava ieri notizia del giorno, cioè su questa condanna di 6 anni agli scienziati per componenti della Commissione Grandi Rischi per il terremoto dell'Aquila. Sono stati condannati per 6 anni per omicidio colposo. Poi andremo subito al tema di giornata. Il tema di giornata è la Tobin Tax e della regressività fiscale che è caratteristica della legge di stabilità. Però lasciate che vi dica che questa condanna è una condanna di quelle molto singolari, che, sulle quali, per quanto sia giusto non tentare sempre di frenare la lingua di fronte a condanne messe da giudici, c'è un po' questo paradosso di questo paese, perché io devo dire la verità, dirò poi in aggiunta poco a quello che una lettera di un ascoltatore, Walter, secondo me esprime bene, questa lettera che mi hanno dato stamattina, e dice Walter: la sentenza di ieri sulla commissione grandi rischi, su questa condanna a 6 anni per omicidio colposo, è secondo me paradigmatica, dice Walter, ovvero in termini grossolani. Vengono condannate delle persone che pare abbiano rassicurato troppo la popolazione durante uno sciamo sismico, escludendo che ci fossero poi pericoli concreti. Va bene, accetto il verdetto di primo grado, dice Walter. Nel procedimento però non sono stati coinvolti né coloro che politicamente hanno consentito la classificazione dell'Abruzzo come area a bassa sismicità, perdonatemi, quando non lo è, né coloro che hanno permesso per decenni che nella zona le nuove costruzioni non fossero antisismiche e le vecchie non venissero ristrutturate. Col risultato di pochi miliardi di euro risparmiati negli anni, molti più miliardi di euro necessari per ricostruire, morti, sofferenze, enormi disagi che non hanno avuto un valore economico ma pesano ancora di più. Ovvero lassismo politico, prevenzione zero e chi ha guadagnato da ambedue che se la ride. E poi conclude con considerazioni sul Giappone. Ecco, io non solo la penso così, ma aggiungo che ho l'impressione che in questa sentenza, che ci mette un po', perdonatemi, all'indice rispetto ai paesi seri, cioè voi pensate che si condannino da qualche altra parte per omicidio colposo gli scienziati nelle commissioni sismiche a seconda delle votazioni dei sciami sismici, come a dire che oramai i giudici dicono: noi abbiamo raggiunto la prova dimostrata in un'aula giudiziaria che esiste una concatenazione diretta tra questo e quel rilevamento di sciame e questo e quel grado di intensità del terremoto che poi capiterà. No, non c'è da nessun altro paese. Oramai noi interveniamo con la giustizia da chiudere l'acciaio all'Ilva, a chiudere i cementifici a Colleferro, a decidere quali sono le concatenazioni deduttive da sciami a eventi a grande intensità sismica. Noi siamo fuori dalla grande direzione seguita dal mondo avanzato. Noi risolviamo a colpi di sentenza penale tutto ciò che altrove si riserva a ben altre materie e a ben altri interventi. Io ho l'impressione che molto nel procedimento abbiano pesato le intercettazioni di Bertolaso, che effettivamente parlava di questa commissione e dei suoi membri con toni del tutto non scientifici, con i toni del capo imperioso che risolveva problemi con eventi mediatici. Ciò malgrado, consentitemi di dire che un paese in cui vengono condannati degli scienziati come il presidente dell'Istituto di Geologia e Vulcanologia per un sottinteso interesse politico, evidentemente per obbedire agli ordini di Bertolaso, sottovalutato lo sciame sismico, beh, questo è veramente un paese singolare. La mia opinione è che è un paese che non avverte che con decisioni di questo tipo scende ulteriormente, gradino dopo gradino, nella scala della credibilità internazionale, e dico in questo caso nel mondo della scienza. Ma curioso di sapere cosa ne pensate, magari telefonate. Oggi andiamo a un altro tema e vi presento subito i nostri ospiti. Noi oggi intrecciamo due argomenti. Un argomento è quello di cui già vi abbiamo parlato più volte, vedremo se resterà nella legge di stabilità, e la retroattività in ordine cioè al fatto che gli effetti delle minori deduzioni e detrazioni, innalzamento della franchigia fiscale, sono nel corso dell'esercizio fiscale attuale, mentre invece gli effetti degli sgravi, due aliquote più basse dell'IRPEF diminuite di un punto, naturalmente questo avviene dopo, e per gli autonomi e i professionisti avviene poi nel conguaglio di qui al 2014 addirittura. La retroattività, sapete, è in violazione dello statuto del contribuente, ma di solito questa cosa ormai si mette esplicitamente, come era esplicitamente citata in un parte del provvedimento di questo governo. C'è chi dice che tutto sommato ormai è inutile protestare per la retroattività fiscale, è diventata una delle maniere in cui il legislatore ordinariamente interviene in materia tributaria. È inutile strillare come fanno i tanti signori con i baffi a punta come Giannino, perché strillano, ma è una cosa poco rilevante. Ma l'altro argomento è la TOB Tobin Tax, la Tobin Tax, cioè la tassazione sulle transazioni finanziarie, cara storicamente alla sinistra e poi in aggiunta diventata cara anche in questi anni di crisi dei mercati a moltissimi che dicono però insomma questi eccessi della finanza vanno tosati, perché rispetto all'economia reale che se la passa così male, un bel po' di tasse a chi fa finanza per finanza male non sono. Io ricordo comunque a tutti che prima della Tobin Tax abbiamo anche innalzato la tassa sui dividendi nel nostro paese, abbiamo messo poi una patrimonialina, cioè la tassa sul conto titoli. Con la Tobin Tax il governo ha seguito una via europea, o meglio una via non troppo europea, perché ci sono altri 10 paesi in Europa, quindi non è condivisa all'interno dell'euroarea. Naturalmente la Gran Bretagna è contrarissima, perché la Gran Bretagna sa che questo tipo di imposta è un'imposta che ha effetti solo se viene condivisa nella congegno, nel come è congegnata e anche nella sua adozione in tutte le grandi aree mondiali, altrimenti questa imposta che cosa fa? Ottiene l'effetto di spostare transazioni finanziarie nelle aree che ovviamente non adottano questa tassazione. In un mondo di capitali globalizzati e aperti questo è quello che avviene. Noi l'adottiamo non solo senza estenderla in altre aree, in America, in Asia, ma neanche nella maggioranza dei paesi dell'Unione Europea, oltretutto per un errore secondo me molto serio dalla Commissione Europea, ieri l'ha criticata anche Salvatore Bragantini, ogni paese che l'adotta lo fa secondo un proprio modello, quindi esporteremo non solo flussi finanziari nel resto del mondo ma anche all'interno dell'Europa. Non sono solo questi i difetti, perché all'interno dell'Europa c'è chi poi tassa le transazioni finanziarie non per singola operazione, come invece faremo noi in Italia, ma lo fa sulla somma delle posizioni quotidiane, noi invece lo facciamo per singola operazione. Approfondiremo, ma vi preannuncio che la mia opinione è che rischia di pagarla soprattutto il piccolo risparmiatore. Il grande operatore se ne andrà verso piazze non regolamentate, quindi over the counter, oppure verso paesi semplicemente in cui non c'è. E invece il piccolo risparmiatore italiano, classicamente un mutuatario, se ha una clausola copertura del cambiamento del tasso, inevitabilmente c'è un derivato collegato a quello ed ecco che tac, tutte le volte che il derivato sottostante dovrà coprirsi e ricoprirsi, tac, dovrà pagare per transazione i 5 per 1000 aggiuntivo della Tobin Tax. Può essere che mi sbaglio, sono molto curioso di sapere sulla retroattività e Tobin Tax come la pensano i nostri ospiti. Allora ve li presento immediatamente tutti e tre, e il primo ci dovrà lasciare alle 9.35 alla fine della prima parte, ed è Antonio De Feo. Antonio De Feo è ex giudice di corte d'appello ed è garante del contribuente delle Marche. Buongiorno e grazie De Feo. Buongiorno. Ed è poi con noi Mario Seminerio, che torna dopo un po' di tempo, è amico, ma non solo questo non vuol dire nulla, soprattutto è un economista già portfolio manager per società di gestione italiane e internazionali, oggi fa il portfolio advisor, e qui perché è curatore da anni di uno dei blog di maggior interesse e tagliente acume sulle vicende finanziarie ed economiche. Questo blog si chiama www.fastidio.net. Buongiorno e grazie a Mario Seminerio. Buongiorno, grazie a voi. E poi il nostro lume in materia fiscale abituale, il professor Raffaello Lupi, che insegna diritto tributario e giurisprudenza Università di Roma Tor Vergata. Buongiorno. Buongiorno. Allora, De Feo, che ci dice lei della retroattività? È inutile protestare, come molti mi dicono, e poi voi che potete fare come garanti del contribuente? Ho qui in mano un articolo di quest'estate di un quotidiano finanziario che diceva, un po' cattivello, che diceva: garanti del contribuente zombie, l'amministrazione finanziaria li ha messi ai margini e loro denunciano al Parlamento operatività azzerata, tagliata anche internet e in ufficio. Non so se sia veramente così. Comunque, che ci dice la retroattività? Va bene, no, innanzitutto ci tengo a precisare, ero presidente della sezione della Corte dei Conti e non della Corte d'Appello, ma questo conta poco. Colpa mia, mi scusi. Ah no, colpa sua, non lo so. Poi volevo dire questo, per quanto riguarda la retroattività è l'ennesima violazione dello Statuto del Contribuente. Lo Statuto del Contribuente, come sapete, pone dei principi fondamentali nella tassazione, dei principi ispirati ad altre democrazie, dei principi di legalità dell'apparato fiscale, ma anche di rispetto del contribuente. questi principi non sono stati osservati, cioè lo statuto dal mio punto di vista, e che è un punto di vista concreto perché io faccio il grande e mi trovo a esaminare spesso segnalazione su questa violazione, lo statuto non è rispettato. E non è rispettato per un semplice motivo, perché lo statuto, nonostante le varie pronunce della Cassazione e delle magistrature superiori, lo statuto non è una norma di rango superiore. Stabilisce dei principi a cui dovremo attenerci tutti nell'attuazione della normativa fiscale, ma questi principi sono stabiliti con una legge normale, cioè con una legge che è efficace come tutte le altre leggi e quindi può essere violata dallo stesso legislatore. Dice: per ora noi accantoniamo lo statuto del contribuente. Questo è avvenuto parecchie volte, alcuni professori di diritto tributario si sono divertiti a calcolare quante volte è stato violato lo statuto, e la retroattività è una di queste. Certamente se passasse la legge di stabilità così com'è, con un effetto retroattivo, sarebbe iniqua non solo sul piano sostanziale, ma porrebbe problemi proprio di legittimità, problemi concreti, non questa volta non sono problemi astratti, problemi concreti, perché la retroattività è un principio che deriva da lontano, cioè io non posso applicare le tasse per il passato, per una capacità contributiva che ormai si è esaurita, è un principio che direi raramente viene violato in questa occasione. Io ti tasso per un reddito per cui tu già forse probabilmente, specialmente la parte più povera, probabilmente hai già speso, e quindi è una tassazione iniqua sul piano sostanziale e non giusta sul piano giuridico, per cui io penso che anche noi garanti avremo dei problemi. Allora io ricordo, aspetti un secondo, no, fermiamoci un secondo qua, perché io poi ricordo, perché già ho ricevuto sms e dicono: ma il garante a chi serve davvero? Che cosa serve il garante? Come e quando è possibile ottenere che cosa dal garante? Allora, al garante in realtà noi tutti quanti contribuenti ci possiamo rivolgere, e facendo delle segnalazioni, mettendoci i propri dati eccetera eccetera, i propri codici fiscali, per segnalare disfunzioni, irregolarità, tutto ciò che a nostra opinione come contribuente sia una scorrettezza nella prassi amministrativa anomala. Naturalmente il garante fa poi una propria attività, fa delle segnalazioni che gira poi alla Guardia di Finanza, alla Direzione Regionale delle Entrate, e in buona sostanza, ecco, fa un'attività di questo tipo, è incardinato alle finanze. Se voi volete rivolgervi e andate su internet a vedere, vedrete che gli indirizzi anche internet dei garanti sono @finanze.it, per essere chiari. Però è un organo che è un organo collegiale, c'è ogni direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, e che dovrebbe tutelare, appunto, e mediare tra i cittadini e l'amministrazione finanziaria. Però il professor Raffaello Lupi nel suo blog ha scritto un post dicendo: ma vale poi la pena di scaldarsi tanto sulla retroattività del taglio alle detrazioni? Come mai? Non bisogna scaldarsi, professore? Perché la ricchezza nelle imposte di periodo c'è ancora, cioè le imposte, io mi ricordo Grilli ha detto: vabbè, ma dopo tutto si paga dal maggio 2013, sì. Cioè non è sparita, come diceva il garante. Certo, se noi tassiamo, noi abbiamo visto la Corte Costituzionale che ha legittimato imposte veramente retroattive, quella sulle indennità di esproprio del 1991, che proprio è stata introdotta dopo che le indennità erano state percepite, e qui sono le variazioni in corso d'anno, che sicuramente sono sleali, per carità, scorrette, ma siamo stati abituati. Nel senso che uno a questo punto dell'anno l'avesse saputo, avrebbe magari potuto modulare diversamente le proprie spese sul totale delle deduzioni e detrazioni che vengono meno, ecco, in concreto. Veramente corretti per i mutui stipulati prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità, noi dovremmo escludere il cambio di regole per tutta la durata del mutuo, così come per le assicurazioni sulla vita, quelle di cui si parla adesso, sono quelle ante 2000, perché quando hanno fatto la modifica che sono entrati in vigore i nuovi regimi della previdenza complementare, tutte le assicurazioni vecchie per cui c'era la detrazione sono state salvaguardate a tempo indeterminato. Ma, però vede che allora bisogna scaldarsi, perché ci sta facendo alcuni esempi di casi conclamati gravissimi intervento del passato e altri casi in cui sono stati garantiti, qua no. Ma certo, perché dovevano finanziare le aperture dei giornali con molti riduce le tasse. Ah vabbè, fermo, sono d'accordo, però questo nel merito è un altro paio di maniche. Seminerio che dice su questa cosa della retroattività? Vale la pena scaldarsi oppure oramai diciamo concentriamoci sul peggio del peggio, perché questo, come dire, fa parte oramai dell'ordinaria amministrazione? Sì, temo che la risposta sia la seconda. Nel senso che viviamo un'emergenza che è sempre estremamente grave, sono assolutamente d'accordo, da non esperto della materia, che il fatto di non avere in Costituzione un principio come quello della non retroattività di variazioni della norma fiscale è importante. Questo mi fa venire in mente tutti i dibattiti sul nulla a quali abbiamo assistito all'inizio di questa legislatura con il precedente governo, sulle cose che andavano messe in Costituzione. Sembrava una gigantesca dia, no, di mettere in Costituzione l'articolo 41, se lo ricordo, l'articolo 41 e tutte queste cose qua. Piccolo particolare, ci si è dimenticati di questo dettaglio mentre si discuteva sul sesso degli angeli, per cui siamo in una situazione di sfregio assoluto della certezza del diritto. Non è necessariamente colpa del governo, il governo si mette in scia, forse il governo di un malcostume diffuso nella pratica italiana che considera i contribuenti come una variabile residuale. Siamo, ripeto, in una condizione di guerra, pertanto forse qualcuno ritiene che non convenga fare i puristi, però ricordiamo, al di là di tutte le diciamo contumelie che vengono indirizzate al governo Monti, che se siamo in questa situazione, con questo deterioramento, non è che la responsabilità sia del governo Monti. Ah, no, il governo Monti ragione. È il parafulmine ha ragione. Una serie di malcostumi che hanno preso un'accelerazione drammatica almeno nell'ultimo quindicennio. Non per cui su anche questo tema si riconduce al più generale tema dell'incuria da parte della politica su quella che era l'economia di questo paese. Senta, e in sintesi, perché poi approfondiamo con lei e con Lupi, però volevo che lei ci desse un primo flash su come la pensa sulla Tobin Tax, perché poi andiamo rapidamente a De Feo che poi ci lascia. Lei che opinione ha della Tobin Tax di Monti? La Tobin Tax, al di là di quella di Monti, è tempo perso ed energie mentali sprecate, perché fin tanto che non viene applicata in maniera omogenea nel più vasto ambito possibile, che ottimalmente sarebbe quello planetario, si risolve in una distorsione dei mercati. Questa è la sintesi estrema, poi magari approfondiremo le specifiche e anche gli errori che sono stati fatti in sede comunitaria. Noto che c'è sempre una grandissima attenzione a livello mediatico e a livello di opinione pubblica per far pagare la finanza. Purtroppo far pagare la finanza con strumenti come questo è una purissima chimera ed è un'illusione su cui poi tutti tendono ad addormentarsi e non pensarci più fino alla botta di demagogia successiva. Sì, vero. Allora, Antonio De Feo invece che ne pensa? Io la penso esattamente come è stato detto prima, concordo pienamente, la Tobin Tax è una tassa che deve essere applicata da tutti. Se non viene applicata da tutti, è quello, si verifica l'effetto che ha detto prima lei, cioè un trasferimento di transazione in altri territori. Questo è però semplice. Adesso poi vediamo anche cosa ci dice Lupi. Ma se siamo, siccome a me pare universalmente condivisa in dottrina, poi la politica la può pensare diversamente. La politica può pensare: se mai nessuno inizia, non arriveremo mai a una legislazione condivisa a livello, come dice Mario Seminiero giustamente, ottimalmente, quello planetario. Però al di là di questo, se siamo tutti d'accordo, perché proprio un governo come quello Monti di tecnici deve abbassare la bandiera di fronte a questo, che sa perfettamente essere una misura che avrà questi effetti? Ecco, su questa domanda noi andiamo in pubblicità. Poi badate bene che, per come l'hanno scritta, in questa Babele di un'Europa in cui ciascuno si fa la Tobin Tax a casa sua, altra cosa incredibile, poi dice che vogliamo costruire l'Europa, ci sono poi effetti aggiuntivi che secondo me penalizzeranno ulteriormente il mercato risparmiatore italiano. Qualche telefonata prima di tornare sulla Tobin Tax con Lupi e Seminerio, qualche telefonata, perché temo che l'inizio con il giudizio sulla sentenza dei 6 anni per omicidio colposo ai componenti della commissione grandi rischi abbia sollecitato anche da in Abruzzo i nostri ascoltatori. Cominciamo con Flavio da Pescara, prego. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, io volevo fare alcune piccole considerazioni sulla sentenza. Sì. Dunque, diciamo, è sconvolgente la sentenza, perché la politica nel corso degli anni non si è mai preoccupata della sicurezza delle strutture, degli edifici, rimandando tutto al privato. E, diciamo, questo comportamento non può essere, come dire, corretto da una sentenza. Allora bisognerebbe che la politica decidesse che cosa vuole fare, e, perché, diciamo, non si può lasciare alla magistratura il compito di regolare la vita dei cittadini, soprattutto quanto riguarda la sicurezza. Quindi, Flavio, sei d'accordo con la lettera di Walter che ho letto all'inizio, che diceva: questa sentenza, per la quale uno può dire che oramai bisogna rispettarla, la sentenza è ovvio, però in realtà non esime e non tocca minimamente la responsabilità degli organi politici, come dici tu, Flavio, che per anni non tennero conto del fatto che la classificazione del sismicità imponeva prima di essere modificata e adeguata a quanto risulta appunto scientificamente, ma secondo, soprattutto, imponeva la coattività di interventi su il patrimonio immobiliare esistente. Io sono molto d'accordo su questo. Noi procediamo a strappi, poi la magistratura fa dei, per così dire, balzi in avanti, che però anch'essi concorrono alla mancanza di credibilità dell'Italia, per quello che mi riguarda. Io non credo che un vulcanologo, uno scienziato di questo tipo, si debba condannare a 6 anni per omicidio colposo, perché noi da questo momento in poi cosa applichiamo? Il principio della massima cautela, per il quale ogni sciamino sismico, a questo punto un componente di commissione grandi rischi nel nostro paese, deve o massimizzare l'allarme o altrimenti d'ora in poi rischia gli anni di galera. Ma guardate, io non lo so, prendete un manuale di vulcanologia, di sismologia, e sapete che c'è un grande dibattito in corso da sempre su quali tipi di inferenze dedurre da micro eventi sismici e sciami rispetto ai grandi eventi, e questa è una cosa sulla quale non credo che una sentenza penale possa indurre a catene di massima cautela, per le quali quindi dedurremo d'ora in poi inferenze che dal punto di vista matematico-scientifico non sono affatto da inferire. Questa è la mia personalissima opinione, che però non sottovaluto i lutti, le tragedie, i morti, i danni economici, però non dimentico la responsabilità amministrativa precedente sopra la quale stendiamo una bella mano di biacca e lo facciamo con una bella botta di giustizialismo penale. Questa è la mia modestissima idea. Torniamo al professor Lupi e a Mario Seminerio. Lupi, lei della Tobin Tax introdotta dal governo italiano, da altri 10 paesi europei, ciascuno a modo suo, che pensa? Bisognerebbe riuscire, venendo incontro a quello che diceva prima Mario Seminieri, a capire se uno che ha i titoli in deposito in qualche dossier americano, italiano, in qualche monte titoli, può liberamente andare nell'unica borsa mondiale che non applica la Tobin Tax, cioè mettiamo che l'applicassimo tutti meno uno, cioè la libertà di movimento di capitali può essere in qualche modo tracciata per evitare che transazioni avvenute su una piazza non soggetta a Tobin Tax possano poi riverberarsi su piazze soggette a Tobin Tax, cioè la determinazione della ricchezza. Quindi non è un problema di dire la finanza è bella, la finanza è brutta, come tende a fare la nostra opinione, siccome la finanza è brutta la dobbiamo tassare, la riusciamo a tassare quando la tracciamo. Cioè, se effettivamente qualunque capitale del mondo può andare nell'unica borsa che non applica la Tobin Tax, è inutile metterla, ha perfettamente ragione Mario Seminieri. O se la mettiamo, bisogna trovare dei modi per evitare che vada nell'unica borsa che non l'ha messa. Quindi è un problema di ostacoli all'utilizzazione delle borse che non collaborano. Quindi ci si può pensare, io per così come è stata messa è chiaro che è un miliardo di euro di gettito messo tanto per tappare il buco, tanto quando non verrà. No, ma non ci sarà mai. Noi non ci saremo più, no? Sono perfettamente d'accordo. Anche perché poi a fronte di una stima di riduzione del totale delle operazioni pari al 30% dell'azionario italiano e all'80% del valore nozionale dei derivati, quando sul valore nozionale dei derivati in Italia esistono stime, come in tutto il mondo, in tutti i mercati, aperte a forbice, una stima che se fosse vera implicherebbe impatti occupazionali sugli intermediari, sulle SIM italiane, gravissime, e è legittimo che loro si preoccupino. Io sono abbastanza senza parole. Poi dico cosa penso io sul punto sollevato adesso dal professor Lupi, che è un punto tecnico, dice ma esiste, perché non esiste davvero la possibilità di andare poi a trovare tramite la tracciabilità laddove un intermediario tenti di fare arbitraggio, lo pizzichiamo comunque fuori e isoliamo il suo tentativo di andare dove la Tobin non si applica. A questo cosa risponde Seminieri? È teoricamente possibile, è praticamente molto difficile. Io non sono pregiudizialmente tra quanti dicono che è impossibile applicare una tassa sulle transazioni finanziarie. Ad esempio, come giustamente sottolineava Bragantini ieri nel suo editoriale, andrebbe rivista, nel senso di un piccolissimo importo a somma fissa su transazione o blocco di transazioni, in maniera tale da non essere distorsivo delle transazioni stesse ed essere frizionale, cioè recuperare gettito, sia pure la funzione dell'imposta non è quella, ridurre, diciamo, il trading ad alta frequenza ed eventualmente riequilibrare alcune condizioni. Però per come è stata disegnata questa imposta, soprattutto nella normativa quadro dell'Unione Europea, è semplicemente ridicola, perché questo tributo nella formulazione, diciamo, della Commissione di Barroso esclude le operazioni aperte e chiuse in giornata, per cui per definizione esclude il trading ad alta frequenza. L'esatto opposto di quello che viene dichiarato essere nel mirino. Sì, ma e oltretutto, per come viene applicata, questo era il metodo della cooperazione rafforzata, che serve per dire un certo numero di paesi partono, gli altri in caso seguiranno. Questo è un altro errore strutturale dell'Unione Europea, cioè credere che in materie come questa, dove ci sono degli effetti di spillover, cioè degli effetti di traboccamento, dove ci sono delle ridondanze tra paesi e aree, dove c'è competizione fiscale, sia possibile credere che un gruppo di paesi fa l'andatura, gli altri se vogliono seguono, se non vogliono non seguono. E c'è un altro punto che vorrei enfatizzare. La stessa Merkel ha presentato in astratto, tra tutte le cose che presenta in astratto di cui abbiamo perso il conto, ha presentato in astratto questo, il gettito di questa Tobin Tax europea, che è stato stimato da Barroso in maniera assolutamente psichedelica in 57 miliardi di euro annui, senza il Regno Unito, per cui è praticamente impossibile, come una base di un eventuale fondo del bilancio europeo per stabilizzazione dei paesi colpiti da shock asimmetrici e crisi varie. Le cose non stanno così, è lodevole il tentativo di creare risorse proprie per l'Unione Europea in maniera tale da evolvere verso un bilancio realmente federale che possa gestire le crisi, però pensare di farlo con una Tobin Tax è assolutamente velleitario e onirico. Quanto poi alla declinazione italiana, per quanto riguarda il trading ad alta frequenza, poi altro piccolo problema, il trading ad alta frequenza non è solo numero di operazioni effettivamente chiuse, ma è anche numero di proposte inserite nel sistema, bravo, nel brevissimo termine, nei millisecondi, in maniera tale da condizionare l'evoluzione, esatto, delle proposte di compravendita. Queste restano non tassate, ma tecnicamente non possono essere tassate. E sempre riguardo il trading ad alta frequenza, noi sappiamo che il modello di questo tipo di trading è ormai maturo, il volume di profitti realizzato dalle case di investimento che applicano il trading ad alta frequenza è in costante riduzione. perché gli algoritmi si stanno diffondendo, perché i comportamenti imitativi si stanno diffondendo, perché l'adozione di hardware e software di questo tipo ad altissima velocità si sta diffondendo, e pertanto anche questo tipo di trading sta progressivamente diventando maturo e sta perdendo le caratteristiche di grimaldello per scardinare il sistema e per fare un sacco di soldi. Ci sono enormi problematiche, ma c'è un unico denominatore comune: la finanza è talmente liquida da riuscire ad aggirare la regolazione. Allora dobbiamo cercare di trovare tutti una regolazione meno invasiva, meno distorsiva, che non produca segmentazioni del mercato dei capitali in Europa, come invece questa Tobin Tax procurerà in maniera drammatica, un mercato che è già frammentato del suo, lo andiamo a frammentare ulteriormente, con 11 paesi in ordine sparso, ciascuno dei quali pensa al proprio bilancio nazionale per allocare questo gettito, e danni sugli intermediari. Se un intermediario chiude o delocalizza, il paese coinvolto perde il gettito IRES. Questo bisognerebbe cercare di far capire a tutti quelli che scrivono editoriali del tipo non piangiamo per i broker. Io personalmente non piango per i broker e dichiaro di non avere alcun conflitto di interesse in materia, il che è utile per rispondere a domande che potrebbero essermi fatte. Giusto. Però se non piangiamo per i broker, evitiamo almeno di ripetere la sciocchezza della tassa sulle imbarcazioni da diporto. Eh certo, io applaudo parola per parola, come se fossi in una curva da stadio, quello che ha detto Mario Seminerio, dalla prima all'ultima parola, compreso il fatto che il legislatore si deve occupare, quando anche abbia l'obiettivo, è obbligato, di preservare i saldi e migliorarli, e di ottenere sempre di fronte a sé gli effetti che i suoi interventi, apparentemente virtuosi perché servono a trovare un altro miliardo di euro a copertura, cosa che non credo, che cosa davvero poi possono determinare invece come perdere il gettito aggiuntivo per effetto della stessa misura. E in questo il legislatore italiano non mostra una grande acutezza. Applausi per me a Seminerio. Eccoci qua, c'è Jim Morrison, che teniamo basso perché abbiamo poco tempo prima della chiusura. Mai pubblicità, devo dire, più azzeccata, perché avete visto qua si parla di piattaforma di trading e noi stiamo parlando della Tobin Tax all'italiana. Allora, che dice Lupi? Alcune delle considerazioni di Seminerio a me sembrano molto fondate, ma come mai i tecnici, proprio i tecnici, cos'è, un passo avanti di fede europeista, montiana, più che la condivisione di una cosa che immagino anche Monti sappia perfettamente come la stiamo declinando, perché credo che possa condividere. Lei che dice? Ma è un manifesto, ma su cosa può fare leva la Tobin Tax? Cioè, se uno sposta l'ottica dalla borsa dove avvengono le negoziazioni alla residenza dell'operatore, cioè dice chiunque ponga in essere transazioni, poi alla fine mi deve autoliquidare, come autoliquidiamo l'imposta di bollo in modo virtuale, cioè a fine anno dice guarda, sì, tu hai fatto tot transazioni, intraday, non intraday, eccetera, mi paghi lo 0,5 per mille. Allora, se uno vuole, può delocalizzare la sua attività con tutti gli inconvenienti che dicevamo prima. Se uno non vuole, resta qua, cioè l'internazionale che opera sulla borsa italiana, cioè il fondo delle Cayman che opera sulla borsa italiana, non lo pigli, però tutti gli italiani che operano sulla borsa di Londra forse li pigli, cioè diamo rilevanza non alla borsa dove si fanno le cose, ma al luogo della residenza dell'operatore. Non so che cosa ne viene fuori, però il fisco deve valorizzare le carte che ha in mano. No, no, certo. Naturalmente il risparmiatore è libero di allocare appunto le sue risorse presso, cioè, intermediari diversi da quelli che stanno qua. Non è che mi metto i titoli sulla banca cinese, perché anche perché poi questa sul risparmiatore pesa poco, perché lo 0,5 è la metà, insomma è abbastanza trascurabile quando mi tengo i titoli per un periodo considerevole, addirittura me li tengo a scadenza. È una disposizione concepita per il trading, ma anche se non è intraday ed è a distanza di giorni, allora colpisce. Cioè la norma in sé non è stupida, la norma che hanno fatto qui, l'idea di Tobin non è stupida, però quindi lei appartiene più al partito che semmai si comincia, mai si riesce a far qualcosa. Intanto acchiappiamo per residenza degli intermediari con ammontari non trascurabili, ma poi così si estende, se capisco bene. bisogna cominciare a pensarci. Sì, sì. Mi pare che il pensiero, la discussione sia stata assente sull'argomento. No, lei dice quindi parliamo solo per sentenze apodittiche. Del resto vedremo quale sarà il bilancio di questa imposta, se non sarà come quello, giustamente richiamato secondo me da Mario Saminerio, delle barche, degli aerei, degli elicotteri e delle automobili di grande cilindrata. Un disastro con danni invece a tutta l'economia circostante in quei settori. Grazie Mario Saminerio, grazie Raffaello Lupi, appuntamento a domani.